RadioTube Social Network. Eccoci alla seconda ora del nostro RadioTube, l'ora di RadioTube Social Network. Nell'ora di RadioTube Social Village, quella dedicata agli spettacoli, abbiamo parlato con Giuseppe Fiorello della sua nuova serie TV che inizia lunedì sera, Gli Orologi del Diavolo. Abbiamo parlato di Porto Rubino, il documentario di Renzo Rubino che è ora su Sky Arte, Renato Zero con il suo 070, e ho ricevuto un bel po' di messaggi di persone che hanno detto che è sempre bello ascoltare Renato Zero, che fa bene all'anima. È vero. E poi la serie TV del momento, che è stata pubblicata ieri, è uscita ieri, non so come si dica, su Netflix, Suburra 3, l'ultima stagione. Ed è un esperto di serie TV, di cinema, insomma, di un sacco di cose, il nostro co-conduttore d'eccezione, che è accanto a me, insomma non proprio accanto, ma come si fa adesso, accanto per quanto si può stare, Paolo Armelli. Ciao Paolo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, belli distanziati. Molto distanziati. Io poi ovviamente una pazza, ho pulito tutto con le salviettine disinfettanti, ma ormai ci tocca. Giornalista freelance, collaboratore ad esempio di Wired, poi mi piace molto seguirti sui social, soprattutto su Instagram, mi piace molto il tuo Instagram, molto molto colorato. Allora, intanto vi devo segnalare, perché abbiamo parlato nel giornale radio delle 17, c'era una partita di tennis in corso, quella di Sonego, dicono che ha vinto, è così? Beh, insomma, sono molto contenta, alla fine è andata bene questa partita, bene, sono contenta, poi ne parleremo nel giornale radio delle 18. Brutte notizie per quanto riguarda il mondo degli spettacoli, ecco qua. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. È la morte di Sean Connery, Paolo, ovviamente tutti ne hanno parlato sui social, con anche le dichiarazioni dei grandi personaggi, ad esempio di Nicola Sturgeon, che ha fatto la sua dichiarazione ufficiale del lutto per la Scozia, non ha mai nascosto le sue simpatie indipendentiste. Sean Connery, ovviamente tutto è passato sui social, beh, una perdita notevole. Per me resta lui il vero Bond, James Bond. Sì, per moltissimi è l'unico e inimitabile James Bond, anche se ce ne sono stati altri. Allora, diciamo, per me è James Bond, di quello lì è James Bond. Io ho amato moltissimo Roger Moore nella vita, però era un'altra cosa. Sì, certo. Pierce Brosnan è forse il mio ideale uomo, non lo so, ma uno dei miei ideali. Anche di uomo. Anche a me piace molto lo 007 di Pierce non Brosnan. Non è male lui, dire. Eh? Sì. Però è un'altra cosa ancora. Daniel Craig, un'altra cosa ancora. Lui però era Bond. E poi in effetti James Bond l'ha definito come attore perché, diciamolo onestamente, ha fatto grandissimi film, ma non è proprio il primo attore che ti viene in mente quando uno pensa al talento attoriale senza pari. Certo, ma certo. Aveva un carisma, un fascino, un modo di stare in scena, di essere vestito, di essere di travestirsi, era anche, no? Poi l'abbiamo visto nel Nome della Rosa, cioè ha fatto dei ruoli veramente, passami il termine orribile, iconici. No, dai, ci sta, te lo lascio passare volta. Perché ci sta questa volta. Però veramente era l'incarnazione di quell'immaginario lì, anche di un certo tipo di mascolinità, poi ha avuto anche lì i suoi problemi, dichiarazioni un po' controverse, anche problemi di alcolismo, probabilmente dipendenze, ma è rimasto come una specie di figura chiave in un certo tipo di immaginario. 90 anni, quindi una vita lunga, effettivamente sì, anche dichiarazioni controverse, forse anche un uomo che però veniva da un'altra generazione. Certo. Diciamo così, proprio qualcosa di... Beh, di... se riguarda oggi i suoi James Bond in particolare, dice delle cose e si comporta soprattutto nei confronti delle donne in modo veramente inaccettabile, ma... Anche lì la nostra intelligenza e la nostra passione per il cinema ci fa comunque apprezzare. Ecco, così apriamo titoli. Anche questo argomento di dibattiti in rete, ma non solo, la cosiddetta cancel culture. Io non sono per le istruzioni per l'uso, per il disclaimer, quante parole inglesi, che brutto, prima di un film, attenzione, contiene stereotipi, dovremmo avere l'intelligenza di capire che tante cose hanno una patina del tempo che, diciamo, ci deve far vedere le cose in maniera un po' relativizzata. Guarda, è un discorso molto, molto complesso, forse non abbiamo tutte le ore per parlare, sì. Ma io ho una posizione di mediazione invece, sono per vedere tutto, anche le cose più problematiche, più controverse, più veramente anche dannose, perché ci sono dei prodotti culturali che hanno fatto dei danni, ma bisogna vederli, bisogna fruirli. Se ci sono dei piccoli disclaimer o delle attenzioni rispetto soprattutto magari a generazioni che più si allontanano, no? dalla sensibilità che ha prodotto quelle cose, quelle opere, forse ci sta, però appunto vediamo tutto e cerchiamo di contestualizzare tutto, perché è solo così che abbiamo il quadro completo. Sì, io poi figurati sarei favorevole lo dico sempre, a insegnare i media a scuola. Secondo me bisognerebbe studiare educazione civica sicuramente, ma anche educazione ai media, che sarebbe ora. Mi sembra che insomma, ogni volta parliamo delle dichiarazioni in rete, dei video di Vincenzo De Luca. Lo facciamo anche stavolta? Vabbè dai, facciamolo anche stavolta, ecco cosa ha detto. Io non ho incontrato in queste settimane neanche una mamma che di fronte ai dati del contagio avesse dichiarato disponibilità a portare i bambini a scuola comunque. Tuttavia mi capita di vedere un'intervista ad una mammina con una bella mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi. La domanda del giornalista: lei che cosa dice per la chiusura delle scuole? Risposta: la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto: mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. È l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a scrivere, perché mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli endecasillabi. Cioè questa povera figlia evidentemente è un OGM, cresciuta dalla mamma con latte al plutonio. Allora, io ogni puntata sono o tifo per De Luca o lo detesto, dico no, basta. Su questa però un po' ha ragione. Cioè, la bambina che piange, mamma mormora la bambina, voglio tornare a scuola per imparare a scrivere, mi fa sorridere. Devo dirli, conosco, le conosco che... Però, mamma, voglio tornare a scuola perché mi mancano i miei compagni, perché voglio tornare a scrivere, forse no. Non lo so, io su questo non so, forse se adesso il codice linguistico di De Luca dovrebbe, non lo so, cambiare. Perché... Beh, onestamente io dubito che De Luca abbia mai incontrato una mamma, né che una mamma che gli abbia detto che i figli avessero stare a scuola. Non ha mai incontrato una mamma con bambini in età scolare in vita sua, ma appunto è molto, cioè da una parte è divertente questo suo personaggio che si è costruito, che è paradossalmente, parlavamo di Sean Connery prima, no? C'è un nesso anche quella lì, è una generazione ormai estinta. Sì, ma sì. Paradossalmente De Luca ha trovato un registro che funziona tantissimo sui social. Cioè, paradossalmente io vedo più immagini di De Luca sui social network che sì, diventano un po' virali. Quel video lì, cioè, appena pensiamo a De Luca lo vediamo lì seduto nel suo ufficio con lo sfondo blu, cioè ormai è un'immagine piuttosto che ci... che dai telegiornali, appunto, quindi è un po' un cortocircuito che tra l'altro ci dice anche di una pericolosità, no? Di trattare certi personaggi che escono dalla loro funzione, in questo caso politica e anche sanitaria, e che diventano dei personaggi un po' memificati, da meme, da ripostaggio un po' ironico, no? E quindi anche lui, secondo me, si fa ovviamente prendere la mano e poi calca tantissimo su questi aneddoti, su questo anche linguaggio. Un no? tempo dicevamo che si diventava virali, era già brutto allora dirlo, mannaggia. Adesso non si può proprio più dire in nessun modo. Allora, sono quasi le 17:16, quindi diamo la linea alla viabilità, poi siamo ancora insieme, perché con Paolo Armelli vorrei parlare di televisione. Sono successe delle cose molto interessanti questa settimana. RadioTube Social Network. Eccoci nella seconda ora del nostro RadioTube, quella dell'attualità della rete e dalla rete di RadioTube Social Network con Paolo Armelli. Eccoci Paolo. Rieccoci. Infatti ho detto a Paolo, siamo io e te che chiacchieriamo, abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare. Tu ti occupi di spettacoli in senso piuttosto ampio, perché ti occupi di serie TV, ti occupi di cinema, il rapporto con la televisione? Guarda, devo dire, si è ridotto drasticamente negli ultimi anni, diciamo, negli ultimi paio d'anni, perché guardando un sacco di serie TV, che sono poi la cosa che mi fa scrivere di più, diciamo che la generalista, tra virgolette, la seguo molto meno, ma insomma, ho anche lì, attraverso Facebook, attraverso i social, molto modo di recuperare un sacco di cose e di essere abbastanza al corrente. Insomma, poi non arrivo a vedere queste prime serate che finiscono alle 2 di notte, però mamma mia, pazzesco, io mi addormento. Anche ieri sera ho visto, vabbè, poi parleremo di quello che ho visto ieri sera. Ah, mi sono addormentata a una certa ora. Io ormai sono diventata come mia nonna che si addormentava sul divano. Io mi addormento. Abbiamo un coprifuoco nell'anima. Ma sono troppo lunghe queste prime serate. Ma come si fa ad andare avanti fino all'1:30? Ma io non lo so, ma abbiamo anche una sveglia la mattina. Vabbè, a parte queste polemiche da boomer, cioè da certo, anziana, e non sono boomer, ho intanto qualcuno dice no, non sono di quella generazione, sono un po' più giovane. Parliamo di un fenomeno che ogni volta, a ogni edizione, stupisce. Eccolo qua. Buongiorno signori genitori, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo collegio. Inizia per voi oggi il corso 1992. L'atmosfera è piacevole, sono molto incuriosita da quello che avverrà. Ragazzi, secondo me sono un po' brutti, me li aspettavo meglio. È la prima volta che ospitiamo in collegio un fratello e una sorella. Signor Teoli. Dica. Sua sorella indossa ancora la tenuta provvisoria, quindi per ora non ce l'ha fatta. Speriamo che per lei sia più facile. Sarà più facile. Non ci spero. La presunzione è un gran dono, signor Teoli. Il problema sa qual è? Mantenere quello che si dice. Passerà solo chi dimostrerà impegno, educazione, coraggio e talento. Allora ragazzi, il collegio, la nuova stagione di questo show che sta tra il reality ma non troppo, il devo dire delle parole inglesi, non mi piace, lo scripted, d'altronde le definizioni sono quelle, le danno in inglese, cioè c'è una sorta di sceneggiatura ma è come se non ci fosse, perché ci sono dei ragazzi reali che vengono portati in realtà durante l'estate in una situazione ricreando un collegio nel passato. Abbiamo vissuto diverse epoche, adesso è nel 1992, tu secondo me nel 90, non andavi ancora a scuola nel 92? Oddio, non so fare i conti, no, non andavo a scuola, ecco. All'asilo, no, io nel 92 andavo a scuola, non vi dico che classe facevo, ma andavo a scuola. E non era mica così, cioè quella era una scuola degli anni 30, non lo so, ma certo non del 92. L'idea è che sia sempre una scuola abbastanza severa e con tutti insomma i crismi dell'impegno, della severità, eccetera. Però effettivamente poi cosa cambia da una scuola degli anni 60 o degli anni 80? Ecco. Da un collegio degli anni 60 infatti, il collegio, che, non so, io non ho mai assaggiato il collegio, ma l'idea è quella lì. Ascolti pazzeschi, ma la cosa che a me colpisce tantissimo è, io ho davanti a me il canale ufficiale di YouTube del collegio, 930.000 iscritti, e ci sono dei video, il preside accoglie i ragazzi, questo che abbiamo sentito, ha 506.225 visualizzazioni. Professori e preside correggono i test, 127.000, l'altro 198.000, 167.000, questi video del canale ufficiale pubblicati 2 giorni fa. Cioè, non solo guardare la trasmissione sulla TV generalista, tra l'altro con un pubblico giovanissimo, ma andare sul web a guardare i video in esclusiva sul web del canale ufficiale, oltre alle video reactions, anche quelle in inglese, perdonatemi, ma le chiamano così, degli youtuber che si filmano mentre guardano il collegio. È pazzesco! Beh, diciamo che proprio questo è stato veramente il successo del collegio, la cifra del successo del collegio, nel senso che è una trasmissione che sta su Rai 2, che dovrebbe, è la rete giovane, no? Più giovane della Rai, però difficilmente attrae un pubblico molto giovane. Rete invece... giovane, però diciamo che i ragazzi, lo sappiamo che ormai la TV generalista spesso non ce l'hanno sempre sott'occhio. E infatti invece poi dovranno tutti ringraziare Ilaria Dalla Tana, che è stata la ex direttrice di Rai 2, che ha introdotto questo format nel palinsesto, perché veramente il pubblico, chiamiamolo millennial, no? Veramente è arrivato in massa su questo programma e svecchia tantissimo il pubblico di Rai 2, che anche dal punto di vista degli inserzionisti fa sempre bene, e poi duplica la visione sui social, su YouTube, e quindi veramente è un obiettivo centratissimo, oltre ad essere un programma godibilissimo secondo me ad ogni età. Sì, io mi diverto, guarda, la millennial e anche questa generazione Z di questi ragazzini imprendibili, incomprensibili. Ci ascoltiamo un altro pezzettino di questi video del collegio, eccolo. E ora l'obiettivo numero uno è nascondere i beni di prima necessità per assicurarsi la sopravvivenza in collegio. Allora io vi avviso, le patatine le metto qua, le cioccolate le metto qua, il cacio cavallo lo metto qua dentro. Ma ti sei portato la provola? No, non parlo di bando. Metti le merende da sopra, così mi trucchi non si vedono. Dove posso mettere il telefono? No. Ah, il telefono io mi sa che lo do. No, io non lo do il telefono. Allora, gli oggetti proibiti del collegio col momento del caciocavallo, queste chicche fanno esplodere poi Twitter, perché siamo anime semplici, chiusi in casa, ci divertiamo poi a condividere queste cose. Qualcuno potrebbe dire avete tanto tempo da perdere, e in questo periodo sì. Eh sì, ma poi, cioè, scusa, sì. Cosa c'è di meglio di un caciocavallo nascosto sotto il letto? Guarda, è la mia nuova idea di trasmissione. Ah, aspetta, allora, c'è qualcuno che mi scrive, scusate, ma perché la notizia della morte di Sean Connery non è stata data nel GR? Risale a poche ore fa, è un po' presto per sparire dal notiziario. Chiederemo a Gigi Donelli che l'ha realizzato, ma sicuramente l'ha dato in tutte le edizioni, quindi probabilmente per ragioni di spazio, perché il giornale radio non può essere lunghissimo, ha dovuto sacrificarlo, ma sapeva che ne avremmo parlato noi appena dopo, quindi questo è un po' di backstage della radio, perché sapeva che ne avremmo parlato appena recuperata la linea dopo il giornale radio. Ogni tanto diamo anche delle, no? Mi piace raccontare perché succedono le cose. Beh, però è bello avere degli radioascoltatori così attenti, no? Che poi bello, sì, anche cinefili. Pretendono in senso buono, insomma. Ecco. Allora, caciocavallo, diciamo, la mia nuova idea di trasgressione, perché sesso, droga e rock and roll sono ormai superati. Il collegio ci ha spiegato che il caciocavallo con gli scaldatielli, diceva, io non li ho mai provati. Ma poi no, appunto, è un programma che dovrebbe mostrare a tutti i giovani d'oggi, no? Che sembrano una cosa incomprensibile e sempre fuori da ogni canone di percezione. Invece i giovani d'oggi amano il caciocavallo come lo amiamo noi, come andiamo a cercarlo, e poi se lo tengono ben stretto quando, sì. Quando è il momento di consegnare. Secondo me nei momenti importanti della vita il formaggio deve avere sempre il suo spazio. Invece sempre nella prima puntata del collegio mi hanno parlato male degli 883. No, quella cosa lì è imperdonabile. Quella cosa lì, lì è... veramente i giovani vanno un po' presi. Sì. Cioè ci devono essere dei fondamentali. Esatto. E gli 883 è uno di questi. Oh, hai ragione, Paolo Armelli ha ragione. Rimanendo sulla TV generalista, vorrei farti sentire, vorrei far riascoltare al pubblico. Io ero proprio davanti alla TV perché ero molto curiosa. È successo questo ieri sera. Bene, bene, bene, bene, bene. Non perdiamo altro tempo, entriamo nel vivo della singolare tensione. Diamo inizio alla settima puntata di Tale e Quale. Hai detto bene, bene, bene, bene, bene. Iniziamo. Ma sì. Allora, Carlo Conti, positivo al Covid, ha detto asintomatico o lievemente sintomatico, ha condotto lo show del venerdì sera, Tale Quale Show, da casa. Comunque vada, cioè secondo me, ed è andata bene, è una pagina da teche, perché qualcosa davvero, non Lily Gruber ha già condotto in questo periodo, però certo lo show serale fa un po' impressione, eh? È una cosa che segna secondo me questo periodo storico. Sì, forse è anche un po' brutto da dire, però viviamo veramente dei tempi interessanti per chi poi studia i media e vede, guarda la televisione e anche guarda gli effetti che la televisione... Avremmo preferito essere meno interessanti, interessati, sì, cioè. Però, però è così, è così. Però vedere come anche, no, ci si adatta per comunque offrire l'intrattenimento, che poi è sacrosanto. Facciamo sempre le classifiche di cosa è importante nella vita delle persone, però mai come in questo periodo abbiamo capito che veramente se siamo chiusi in casa o se dobbiamo stare lontani da tanti svaghi e da tanti stimoli, essere intrattenuti, avere qualcosa che ci fa distogliere il pensiero è importantissimo. E Carlo Conti, stacanovista come pochi, figurarsi se poteva staccare la spina da tale quale show, e invece conduce dal suo salotto e siamo tutti un po' più contenti, credo. C'è una cosa che mi ha fatto tenerezza, io poi per poco conosco Carlo Conti, ma professionalmente lo seguo da tanti anni, anche con un certo affetto, perché a me piacciono i secchioni, Paolo, mi piacciono quelli precisi, quelli che hanno tutto sotto controllo, questa cosa mi piace. Si vedeva che ieri lui era lì, che era collegato, ma stava comunque controllando tutto, era in collegamento con gli autori, cioè si vedeva che c'era una certa fatica da parte sua. Ma la cosa che mi ha fatto piacere e che mi ha fatto anche un po' impressione è questo fatto che non hanno portato a casa di Carlo Conti, avrebbero potuto, no? Non so, un intero studio televisivo, cioè potevano in sua assenza metterlo in una stanza, allestire uno studio televisivo e poi lui, cioè si poteva fare anche in sicurezza. Invece è stato proprio un collegamento come i collegamenti Zoom che facciamo, esatto, noi tra amici o alle conferenze stampa con gli AirPods nelle orecchie. Era proprio un collegamento di come li facciamo noi. Abbiamo potuto giudicare anche l'arredamento di casa di Carlo Conti. Ormai io conosco a memoria tutte le case di tutti, perché ovviamente collegando, facendo anche le interviste, ormai ho una library di case degli artisti. Devo dire, parlando di conduzioni televisive, Lilli Gruber ovviamente ha una casa pazzesca, come lei nello stile, ragazzi. Ma anche Mirta Merlino, che conduce ultimamente anche Mirta, anche lei ha una casa un po' più romantica, più calda, però sì, veramente sì. Entriamo, mi ha divertito davvero molto la prima sera in cui Lilli Gruber ha condotto 8:30, tu sorridi perché sai già cosa sto dicendo. Sui social si sono diffuse le notizie sui pezzi dell'arredamento con relativi prezzi. Ecco, quello forse è un po' troppo, però quel vaso, che chic. Quel vaso. Ma poi lei è eratica anche proprio, no? Sì, sì, cioè, sì. Cioè anche sì, in collegamento da casa sua sempre... Allora, intanto chiamo a raccolta anche il nostro ospite, ormai dire amico di RadioTube è troppo poco, Michele Boroni. Ciao Michele. Ciao a tutti, ciao Marta, ciao, ciao Paolo. Ciao. Michele, hai visto un pezzettino di Tale Quale Show ieri sera? Hai visto questo Carlo Conti da casa? L'ho visto, sì, così, zappingando, l'ho visto, non riesco a vederlo più di 10-15 minuti. Lo so che sai che io invece sono un team Carlo Conti, ma mi conosci Michele, però fa un po' impressione questa cosa del collegamento Zoom, così, in questo periodo, secondo me è anche un po' la barriera della qualità, cioè questo tacito patto tra chi fa intrattenimento e chi ne fruisce. Succede anche noi in radio, a me non è mai piaciuto fare le interviste al telefono, oppure magari fino a qualche mese fa non avrei mai, proprio per una questione di qualità, non avrei certo fatto delle interviste via Zoom o via Skype, e anche magari gli ascoltatori avrebbero detto ma come si sente male. Adesso invece non dico tana libera tutti, però dobbiamo un po' venirci incontro negli escamotage tecnici per ovviare alla situazione, e così ci siamo un po' adattati a questo. Anche in televisione si vedono dei collegamenti che sono talmente disturbati che in un altro momento non l'avremmo mai visti, mai nella vita. È vero, ti dirò di più, la pandemia ha accelerato un processo che è quello della vicinanza tra appunto il mondo delle celebrity e il pubblico, che in qualche modo è figlia del digitale, è figlia dei social. Quindi in qualche modo la pandemia ha accelerato appunto questo processo di tenersi più vicini, di essere non la star in alto e il pubblico, diciamo, in basso che guarda con gli occhi sognanti, quindi insomma una sorta di vicinanza che secondo me è abbastanza una cifra che di questi tempi. Poi finirà tutto nei manuali di comunicazione tra qualche anno, inevitabilmente. Allora, pausa per il meteo. Abbiamo il meteo? Sì, pausa per il meteo. Intanto vi dico che ho il punteggio di Lorenzo Sonego, ha vinto 6-3-6-4 nella semifinale del Erste Bank Open di Vienna, perché non ce l'avevo il risultato prima, adesso ce l'ho, 6-3-6-4. Pausa e poi parleremo ancora di televisione social con Paolo Armelli qui accanto, si fa per dire, a me, e Michele Boroni, a tra poco. Il calcio cavallo lo metto qua dentro. Radio Tube Social Network. Durante la pausa stavamo parlando ancora con Paolo Armelli di questo Carlo Conti da remoto in tale quale show. Allora, chiedo subito a Paolo Armelli e anche a Michele Boroni che abbiamo collegato. Ciao Michele. Tra l'altro, ciao. Vabbè, io ti rapirò di nuovo come co-conduttore a distanza, tanto ormai qui appunto noi adesso noi stiamo andando in onda con le porte aperte dello studio. Come diceva Paolo, stiamo contravvenendo a tutte le leggi, anche della radiofonia, ma bisogna fare così aereiamo lo studio. Voglio fare una domanda a entrambi. Perché sui social poi si è scatenato un po' il dibattito, soprattutto tra quei rompini di Twitter, se era un buon esempio o un cattivo esempio Carlo Conti in onda da casa sua, da positivo asintomatico. Allora, io non sono per la TV educativa, Filiberto Guala e la TV degli anni 50 l'abbiamo studiata, chi ha studiato comunicazione a scuola e appartiene a un altro tempo, però vorrei sapere da voi cosa pensate di questa cosa. Qualcuno ha detto cattivo esempio, buon esempio. Paolo, che ne pensi? Beh, guarda, non capisco perché bisogna tirare in mezzo il buono o cattivo esempio, come se diciamo la malattia, il virus, avesse qualcosa di, no, una connotazione morale o etica. Carlo Conti ha preso il coronavirus, a quanto pare anche o leggermente positivo o asintomatico, è più o meno in forze e quindi perché non dovrebbe condurre da casa? Tra l'altro, un programma che ovviamente pensiamo sempre ai conduttori come se fossero dei lavoratori semplici pure, ma in realtà se non c'è lui, se non c'è la sua faccia, tutta la grande macchina di uno show come tale e quale, insomma, si ferma. Quindi sì, beh, poi nel suo caso essendo lui, non è uno di quei conduttori che hanno gli autori che fanno tutto e gli dicono le cose in cuffia. Senza di lui è proprio la macchina che non ha il pilota, quindi effettivamente non lo so, lo capisco, sto bene, lo faccio lo stesso. Michele, cosa ne pensi? Sì, io non ho letto le critiche, sinceramente, ma non riesco nemmeno a immaginarmele, nel senso che sottoscrivo quello che ha detto Paolo, lo trovo assolutamente prive di senso, insomma, se la persona è asintomatica o se non ha problemi a condurre, non vedo perché non lo possa fare, dal momento che, come dicevate, è lui anche in parte lo show, insomma. Certo. È un po' una sua creazione, e se manca lui forse va anche un po' a cadere tutto quanto la costruzione dello spettacolo. Poi io adoro il fatto che appunto in questo periodo sveliamo tutti i meccanismi. A un certo punto lui ha detto: mi tolgo la giacca, me la rimetterò solo nei lanci delle esibizioni perché le ho registrate ieri. I famosi raccordi. E lui l'ha detto: vabbè, quella me lo rimetto perché le ho registrate ieri. Allora, invece, solo qualche secondo di Amadeus, che ha presentato Ama Sanremo, che va in onda in contemporanea tra l'altro a X Factor, questa gara dei giovani, ma soprattutto ha detto qualcosa di importante per il prossimo Festival di Sanremo. Stiamo lavorando pensando di fare Sanremo dal 2 al 6 marzo. Solamente a gennaio potremo valutare qual è la situazione reale in quel momento. Ma rimane che deve essere un Sanremo della rinascita, di positività e di gioia, non certamente un Sanremo dimesso, questo non c'è dubbio. Allora, ogni tanto qualcuno prende in giro Amadeus perché non gli passa questa cosa di dire positività che non si può dire in questo periodo, ma glielo concediamo. Tanti dicono, anche oggi su Twitter, l'amica Stefania Carin diceva salvate il Natale, salvate Sanremo che è il nostro Natale. Paolo ride, un pochino, dai. No, allora, bisogna dire che sicuramente questo paese non può funzionare e non può tornare alla normalità senza che si svolga Sanremo con tutti i rituali che comporta. Allora, fare ipotesi sulle date, come ha detto lo stesso Amadeus, è probabilmente prematuro. Ma io non disdegnerei un Sanremo balneare tipo a maggio. Che bello! Tutti prenotati al Lido Regina. Che bello! Le feste al Morgana in spiaggia. Bello. Appoggio la mozione Armelli. Sanremo maggio-giugno e facciamo l'Eurovision proprio in piena estate. Sì, anche ecco. Quello, guarda, non ci stavo pensando, mi hai dato un altro motivo per un po' deprimermi all'Eurovision. ecco, vabbè, lasciamo perdere, quella è veramente una grossa ansia. Ma parliamo appunto di un altro spettacolo che va in onda in contemporanea con questo Ama Sanremo, ovviamente X Factor che ha dovuto anche qui fare un po' i conti con la situazione della pandemia in questi giorni. C'è stata la conferenza stampa di presentazione, ovviamente a distanza, e così ha raccontato la curatrice Eliana Guerra. Abbiamo scelto proprio di rinunciare al loft, che è stato uno dei luoghi emblematici sempre di racconto. I ragazzi vivono singolarmente, siamo costretti a rinunciare a tutta una parte di situazioni un po' più unofficial, collettive, che ovviamente non possiamo portare avanti in alcun modo. Ma parliamo un po' di X Factor, allora, questo momento di appunto difficile ha fatto un po' calibrare il lancio di X Factor, alcune cose sono state parzialmente modificate, sicuramente lo abbiamo detto anche nella prima ora di RadioTube Social Village, siamo per forza in casa, quindi ci viene voglia anche di un po' di socialità attraverso i social, e chi vuole commentare X Factor va sul divano Boroni, Michele. No, cioè, tu l'hai lanciato. In realtà non è proprio così. Ma Michele, quanto è lungo il tuo divano? Da quanti posti è? Hashtag divano Boroni. È abbastanza grande, nell'ultima, diciamo, lo scorso giovedì ci sono stati 1000 commenti, ecco, tanto per dire che insomma è un numero, perché insomma, diciamolo, è semplicemente un post del mio profilo personale, quindi bisogna essere miei amici, quindi non è una cosa su Facebook. Su Facebook, sì, su Facebook, e altro non è che quello che si chiama il live tweeting, no? Quindi il commentare tutti insieme quello che sta andando in onda, ma in un modo un po' più intimo, quindi con amici reali e virtuali, poi all'interno dei quali c'è anche una vasta comunità di giornalisti musicali, dirigenti televisivi, autori satirici, quindi e persone anche, come dire, non note ma molto simpatiche, e quindi insomma altro non è che un grande divanone virtuale dove si commenta lo show. Ecco, questo mi piace molto. Non ti banna Facebook per post con migliaia di commenti, no? No, assolutamente no. Io sono anche una persona che non ha nemmeno questi grandi numeri di amicizia, questo è un mio profilo personale, quindi non è un profilo di persona nota, ecco, è un profilo assolutamente personale, però non ho avuto ancora nessun tipo di rimostranza da parte di... Ah, ok, bene. Marco Zuckerberg non è venuto a bussarti a casa a dire qui c'è troppo casino su questo divano, eh? Cos'è tutta questa gente? Allora facciamo una brevissima pausa perché poi voglio sapere cosa pensi e cosa pensa il tuo divano di X Factor. Pausa, poi saremo ancora insieme. RadioTube Social Network. Vittoria agli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette la finestra una tendina rotta. Bucia il naso lì su, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare sì un mondo diverso. Che poi sapesse indietro quanto tempo ho perso. C'è una rivoluzione fuori tutto pezzi. Eccoci ancora per gli ultimi momenti in diretta del nostro RadioTube Social Network con Paolo Armelli, giornalista freelance, firma tra l'altro di Wired. Poi andate a seguirlo su Instagram perché mi piace molto su Instagram. Oddio, adesso dovrò stare attentissimo a cosa adesso pubblico. C'è l'ansia da prestazione. E collegato con noi Michele Boroni, quello di Divano Boroni. Ciao Michele. Allora, sul tuo Divano Boroni si commenta X Factor. Cosa stavamo sentendo? Hai sentito? Aiuto! Casa di Lego. Sono preparato. Casa di Lego. Casa, okay, di, casa, Lego, di, ecco. Casa di Lego. Casa di Lego. No, voglio sapere sul tuo divano in questo momento quali sono gli umori. Chi piace? Allora, in realtà piacciono molto poco tutti. Urca! Se lo diciamo perché. Urca! Sì. Sì, sì, sarà che diciamo, il target di Divano Boroni probabilmente è un po' più da The Voice Senior, probabilmente che io attendo con grandissima ansia. A commentare con grande entusiasmo. Beh, come dicevate prima, quando parlavate del collegio, è evidente che quest'anno X Factor sia molto, molto, molto... come dire, targetizzato proprio ad un pubblico di millennial, ma soprattutto di generazione Z. Mm-mm. Perché le proposte sono molto molto contemporanee, diciamo. Però dall'altra parte la qualità, anche perché quest'anno sono partiti con gli inediti che hanno totalmente, come dire, sì, una scelta coraggiosa, perché un po' sì, strana, coraggiosa, sì. Coraggiosa. E poi è buffa questa cosa che sono già in qualche modo già formati, almeno si sentono molto formati, hanno già un loro outfit ben preciso, hanno già il nome d'arte, hanno già il loro social media manager che gestisce il loro profilo, quindi come dire, è molto diverso dall'X Factor come lo pensavamo noi, come questi ragazzini che si presentavano con il loro nome di battesimo, un po' da plasmare, invece è diverso. In realtà noi fondamentalmente commentiamo, noi ci divertiamo a commentare un po' il linguaggio dei talent, no? E quindi quest'anno, ad esempio, ci diverte molto il fatto che le due parole forti che come dire sono in prima linea sono percorso e attitudine viene utilizzato molto. Allora, percorso è un classico, attitudine è abbastanza nuova. È abbastanza nuova, peraltro con un significato anche un po' alla inglese, cioè attitude, che significa avere una capacità di ed avere un, come dire, una prestanza a raccontare o a presidiare un determinato genere musicale. Invece qua è soprattutto Manuel Agnelli che lo usa appunto in questa accezione che non è proprio italiana. Vabbè, va bene. Ho un'ultima domanda da fare sia a te che a Paolo su X Factor, ma non solo. L'account ufficiale di X Factor ha dovuto spiegare la presenza del pubblico. Perché in molti dicevano: ma se i teatri sono chiusi, i cinema sono chiusi perché c'è il pubblico, hanno spiegato sostanzialmente che sono figuranti, cioè che non c'è un pubblico vero, tra virgolette, ma fanno parte, diciamo, in un qualche modo del cast. Sì, soprattutto sono pagati. Sono pagati, sono controllati, fanno il tampone, eccetera. La domanda è, io l'ho scritto ieri su Twitter, ho scritto la mia, preferite in questo periodo Uno spettacolo con poco pubblico in televisione, niente pubblico come ha fatto sostanzialmente Ama Sanremo, che infatti è da uno studio radiofonico, quindi è proprio fatto senza pubblico, oppure un pubblico creato digitalmente? Qual è secondo voi la scelta giusta, Michele? Allora, è una bella domanda, nel senso che è una situazione totalmente nuova, c'è da dire che l'assenza di pubblico nelle cosiddette audition di X Factor sia molto sentito, perché il pubblico è veramente un elemento proprio di spettacolo importante, e quindi probabilmente nel live hanno visto che era necessario. Capisco d'altronde quelle che sono state le critiche del pubblico, ecco, in questo caso la critica un po' la capisco, perché evidentemente insomma c'è tutta una parte, lo sappiamo benissimo, insomma lo spettacolo non sta andando avanti, e vedere il pubblico, tra l'altro è divertente le parole della produzione in conferenza stampa, che sono figuranti selezionati in base all'entusiasmo, cioè dovevano essere proprio bella, delle persone è vero, particolarmente è vero, entusiaste, e che sapevano, non lo so, è una questione che non si esaurisce oggi, non si esaurirà oggi, e che sarà secondo me un dibattito che continuerà anche, ahimè, per le prossime settimane. Anche secondo me. Paolo, che dici? Guarda, io non ho una posizione molto netta su questo, nel senso che sono tempi esplosi, straniti, e come si fa si sbaglia. Devo dire che io considero sempre anche il fatto che comunque c'è un lato umano oltre alle cose televisive, e quindi il pubblico di X Factor è sempre stato emotivamente per i cantanti, per i concorrenti, una componente anche di, come dire, di stimolo, di rassicurazione, di riscontro. Quindi capisco in qualche modo la produzione che abbia deciso di non rinunciare al pubblico, anche se in questo modo. Poi è stato divertente che in settimana ci sono state le due polemiche estreme, no? X Factor e Maurizio Costanzo Show, che ha riempito il teatro suo solito con un sacco di... appunto di persone divise dai plexi, sì, dei plexi, forse quello era troppo, non lo so, era strano questi due opposti anche, sì, no, anagrafici, sì, però sì. Appunto io non ho una soluzione a questo, non ho un'opinione netta, appunto forse un po' più di cautela da parte di tutti, anche nelle opinioni espresse. Sì, forse. Sì, infatti, anche perché è davvero un momento difficile in cui si cerca di capire come comportarsi. Devo dire, preferisco questa soluzione a, mi ricordo quando nei primi periodi della pandemia Carlo Conti si era inventato questo top 10 che era fatto veramente, non dico artigianalmente, però con quello che si poteva, con gli applausi registrati. D'altronde uno spettacolo senza applausi è bello. In America Ellen DeGeneres nel suo talk show aveva degli specie di vidwall in cui venivano proiettate il pubblico da casa, proprio come se fossero su Zoom. L'aveva fatto anche Cattelan, anche, e poi c'è Cattelan se non sbaglio, che faceva il, sì, pubblico. Sì, sì, è vero, però lì erano proprio delle specie di totem in cui ognuno aveva la figura di una persona, carino, che applaudiva. Carino, mi piace molto. Però anche lei adesso ha reintrodotto il pubblico, quindi anche lì non si sa mai come è un discorso difficile. Devo ringraziare Michele Boroni, grazie Michele, ci troviamo sul tuo divano, ci troviamo sul divano Michele. Boroni, ciao Michele, grazie. Buona serata, ciao. E devo salutare anche Paolo Armelli, io mi ero preparata un sacco di video, volevo sorridere un po' con Crozza che fa Zaia, veramente molto molto carino, l'ha fatto molto bene, anche con grazia, non prendendolo in giro, l'ho trovato molto divertente. Vabbè, però il nostro tempo a disposizione è finito, qui nello studio con le porte aperte per far cambiare l'aria, vabbè, ormai vale tutto. Allora, devo ringraziare assolutamente Alessandro Schirano in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, grazie a Paolo Armelli per essere stato con me, grazie dell'invito. E adesso torniamo a richiuderci nel nostro guscetto delle lumache, insomma poi torneremo a respirare aria tra, chissà, speriamo presto. Noi ci ritroviamo domattina con RadioTube l'intervista, domattina ci sarà Busta dopo il giornale radio delle 7. Ancora un saluto, un abbraccio a distanza, ma un abbraccio da Marta Cagnola.